forse il direttore è leggermente spostato verso di te, sicuramente qualcosa in più arriva della mantola. E Roberto lo prendo proprio in pieno, Roberto è sullo scala. Subito più 30, sì. Ehi, quindi più o meno siamo lì. Più o meno siamo lì e siamo a 10 watt, 20 modulati. Se solo con la potenza te lo chiudo tutto. No, no, su Sassari non ho problemi. Sassari, Porto Torres, insomma, o di fianco o di lato riesco a lavorare bene, ma quando uno è già lontano, se non è direzionata proprio sorso, ad esempio rimane leggermente a nord-ovest, spostato leggermente a nord-ovest, sarà 330 gradi, 360 gradi, 340, io ce l'ho a 0 gradi adesso l'antenna, quindi va bene su Sassari. Okay, io quando ti arrivo? Prova, vai. Hola, 1, 2, 3, prova radio. Conte Claudio, sì. Lui qua sta arrivando quasi a fondo scala, 9,55 a picchi 9,60. Come io non noto differenza con la mantova, per certi versi forse anche di più per certe cose. Io come ricezione mi accorgo, come trasmissione no. Anche da Giulia ad esempio più o meno mi tocca lo stesso segnale, ma dipende dalle zone, quindi non so, vabbè, non ho quello il problema, l'importante è farci due chiacchiere poi si abbia il luce, tanto te l'ho già detto, non ho nessuna intenzione di agganciare il cavo, di perché attività ne sto facendo ben poca qua, adesso in questi giorni sto entrando ogni tanto a salutare, ma di solito non stavo più entrando, ero sempre in ascolto. Un attimino, scusate, dove non chiamate? Sì, vediamo un pochino se Domenico mi ascolta, ma sarà molto difficile. Domenico, non lo sento più, vedi? Figurati tu, è al contrario, l'antenna. Eccola qua, con la mantova, Domenico, lo sento sino a Barbara, invece adesso non lo sento più. Deve essere andato a pescare. A pescare? Non si è sentito tutta la sera. No, penso, ma quanto tempo? Sì, da questo tempo si pesca, battata a patti, cioè va bene. Ma che ho vedo qua, ma che ha portato adesso? Oh, non ho sentito per niente, ci hanno sentito ieri sera, una di cena, sulle 8:30, 9:20, e poi ho spento tutto, mi ho riacceso, andavo di pranzo, poi il pranzo, il guato, il zinco, era un ascolto. Però non ho sentito nessuno, non so, se ho sentito Roberto al telefono e sono entrato a fare due chiacchiere, ma niente di particolare. E ho sentito i calamari, sento qualcuno a portarmi, vabbè, come andare di sera adesso, no? Adesso in poi, dai, adesso fino a 9:30, 10. Ci organizziamo, io c'ho una canetta piccolina proprio per calamari che mi aveva sistemata a Franco, ci siamo anche sentiti con Franco, gli ho dato un numero, mi ha detto ci faceva sentire invece come al solito, è sempre in daffarato, impegnato, tutto buon pite, ci si dà via cuta a capo, se stai ascoltando, prima tu cuta a capo il buon pite. Quando mi hai regalato tu, praticamente me l'ha cauta, non ci vedo la bussina, mi ha cauta un pezzo di pignata, ma spaccata in due. E cosa? Per la pesca tua. Oh, è grande, tu ci hai sentito la vecchia? Sì, ogni tanto già entra, e un po' sente anche lui, tra lavoro, tra le palle, tra troccato, qui un po' sente, però ogni tanto già si fa sentire. Ma quella antenna ce l'aveva messa, quella famosa antenna che si doveva mettere, che stava aspettando il tempo buono. Sì, è stata la bibanda, quella, tu c'hai la 50 e lui c'ha la 300, e volta io lo stesso. Va molto bene, questo c'è una zona micidiale, arriva molto molto forte da tutte le parti. Anche la antenna 27. Adesso deve montare il dipo 5 bande, e anche lui lo stesso, quando uno non ha voglia di fare le cose, mentre me cosa di buono fa, poi non ha più tempo. Ma la 27 l'aveva messa l'antenna, l'aveva sollevata, perché lui c'è certi momenti il blocco non si tendiva, usciva male, poi dice doveva migliorare, stava aspettando, l'ha messa pure l'antenna Pro 27. Che devo dire, se arriva con te qua. Vediamo, se c'è l'ascolto così volevo vedere il segnale, perché io sono ancora arretrato, quando ci siamo sentiti verso maggio, giugno, adesso non ricordo, maggio forse, l'ultima volta che l'ho sentito in radio. No, mi pare che c'era anche ieri sera, io non sono entrato dove c'era l'urgente, c'era detto mio figlio a casa, quindi stavo parlando certo, non l'ho sentito. E il segnale qua 9.40, abbondante, di antonimale di fronte a me, lì dove c'è, sono i carabinieri, largo Buda, feste capite, prima di bomba forte. Io ho trovato Daniele nell'entrata d'Italia, stavo rientrando, ho visto, sono andato per sbaglio e c'era la cosiddetta fiera di Sassari, che era una cosa ridicola, c'erano i 6 stand, 2 di questi stand erano del Folletto, uno di questi babà napoletani che vendono roba napoletana, uno di Occhio e Pelle e l'altro di, cosa era, non me la metto nel manco, di un'altra cosa, di quel giornale Sardegna News, una cosa ridicola, è salito di fiera. Ho trovato Daniele col figlioletto piccolino e la moglie. Lui che ne sa se come lo faceva San Cesario, però bravo io, ma bravo fiere, io proprio responsabile del montaggio, quando si faceva Tubino Cinti, adesso c'è il cognato e vuole riprendere in mano la situazione, fa la fiera di Sassari, prima di recuperare tutti gli stand come erano prima, poi non rimaneva con il calcio, non compri, se non venne di anno, non sono andato a non stand, mi pare che erano quelli da 3x3, no, 4x3, 12 metri quadri, e 4x4, mi fa una cosa del genere. Questi erano quando lavoravo io in lire, costavano anche 1.600.000, 1.200.000. Non lo so, ma loro devono fare una cosa, secondo me, fare una fiera settoriale, tipo come c'è per dire a Milano, a Genova c'è la fiera nautica, a Kosovo la fiera del Capo, a Verona, all'altra a Novegro c'è la fiera della Roma antica, cose così, come l'avevano fatta un anno, avevano fatto la fiera solo vivaistica, delle piante, dei giardini, che era una cosa bellina, proprio bella, cioè settoriale, no fare un magazzino di Mondetta, perché questa che vedi dice fiera, non si può neanche chiamare fiera, perché Piazza dei Segni è 10 volte più grande, per fare un confronto, per dire, dobbiamo fare una fiera settoriale su un argomento, invitare delle ditte che costruiscono, che producono, anziché far venire il negozietto di Via Tattola con il coso di caramella, perché venivano anche a portare la caramella la fiera, questa è una cosa ridicola, fare una cosa ben fatta, secondo me, e c'è una possibilità, perché spazi ne abbiamo, c'è quello della promocamera giù a Coso, a Predaniella, che io di lì ho visto un paio di cose, le avevano fatte carine, e poi purtroppo non si sono ripetute e basta, però chiesi da tutte le parti, a Genova, io so, quest'anno sono andato, ma sono tutti gli anni, l'anno scorso c'erano 400 espositori di meno dell'anno precedente, e ha detto tutto, e di lì bisogna circa uno studio, una fiera mondiale, ma ti ricordo se bisogna fare una fiera a Sassari. Il discorso promocamera è un discorso molto semplice, ok? Il comune di Sassari, quindi il comando dei vigili urbani, non ha dato l'autorizzazione per l'apertura di quella fiera, perché ogni volta che c'era la fiera promocamera per Daniele era un troiaio, ok? Allora o fai uno spazio adeguato per i parcheggi, per mettere le macchine, non che le macchine tutte mezzo strada, in mezzo strada, cioè gli due incroci, Alghero, cioè è uscita per Daniele da praticamente cosa ti posso dire, dove c'è la TNT Tracco, da lì, no? Per Alghero bloccata, l'altro incrocio Alghero Cagliari bloccato, l'altro incrocio che ancora per Pordotone c'è bloccato, le macchine tutte in mezzo strada a tagliare la carreggiata, quello non è un modo di lavorare, capito? Perché è molto pericoloso. Allora quando dice Vani non ha dato l'autorizzazione, ok, quindi in concomitante al comune di Sassari, quindi non si fa più lì, fino a quando il consorzio di Predaniella non decida di fare per la promocamera dei parcheggi adeguati, un piazzale grande, che ce ne sono tanti vicino, ok? Passano la ruspa, fanno un piazzale grande, lo asfaltano, lo mettono la ghiaia, lo mettono in sicurezza, eccetera, e le macchine per andare in fiera le mettono tutte lì dentro. Diversamente veramente non si può fare quello che si che stavano facendo. Sì, chiaramente la cosa è fatta, cioè, perché uno avranno pulito un pezzettino di quei terreni che ci sono lì vicino a Coso, quei terreni incursi, li hai visti, dici, basta pulire, tagliare l'erba, spianare con un rullo, non avevo nulla. Purtroppo qua non c'è iniziativa. E se io ho amici che hanno una associazione di auto e motodetto che gli hanno chiesto per fare una cosa, un'esibizione, nel senso con le mostre scambio, tipo come quelle che andate voi dei radioamatori, cose del genere, non gli date neanche nulla. Quel cazzo del coso gli hanno chiesto, perché non ci date il professore Matatur, lì facciamo un museo storico di tutto quello che riguarda dalle auto, le moto, roba industriale, diciamo, dalle qualunque genere di cose che riguarda il campo motoristico, nuda, non è dato, e lì sono tutto lampato, tutto buttato così, e non so, purtroppo ci vuole gente che abbia iniziativa. In Italia e soprattutto la Svezia siamo un po' arretrati. Ok, vediamo se nel 5 c'è qualche altro che vuole entrare, se no siamo monopolizzati. Avanti su 5. Vai Luca. Sono passato anche Luca, vai Ecla, riprenditela. Già c'è nata Ecla. No, sto aspettando un picchiamo, io vabbè Luca Ecla esce, sta facendo cose. No, beh, secondo il mio punto di vista la piazza dei segni è ideale, come è stato sempre, da sempre, perché sono state fatte 15 fiere, fatte veramente bene, io ci ho lavorato e c'era il mondo, tutti gli artigiani, cose, c'erano anche sì, quelli che vendevano c'erano fusaglie, però c'erano cose anche interessanti. Ed è il posto ideale perché c'è il posto per le macchine, c'è un piazzale enorme, capito? Piazzale enorme, quindi va bene. Tenendo conto che anche la struttura, qualsiasi struttura monti, c'è posto anche dentro perché è grandissimo. Giuseppe Iuratto si chiama, quello che è l'organizzatore di Aladino praticamente, è una società che costruisce questi capannoni per fabbricare, questi gazebi, chiamano come voi, vuole rilanciare Piazza dei Segni, ma per poter rilanciare Piazza dei Segni ci vuole un'organizzazione diversa da quella che era già la struttura permanente di Promocamera, quindi cosa pensava di ottenere? Bisogna coinvolgere un po' tutto quello che è il commercio in provincia di Sassari, cosa che è molto difficile adesso perché c'è una crisi che si taglia a fette. Io ne avevo parlato, lui che ci conosciamo molto molto bene, sono stato loro dipendente per tanti anni, mi ha detto che si poteva anche organizzare, perché vedi, organizzare la fiera dell'animatore, ne avevano fatto una in Sardegna, Urbia, ed era andata anche benino, solo che è molto distante, è molto lontano, perché soprattutto quelli che fanno Milano, io sono stato a Novreglo, alla fiera di Novreglo, Genova, ma tutti quelli di Genova verrebbero qua perché è una stronzata, fanno Genova a Porto Torres e si è arrivato, capito? Invece quelli che a Olbia è lontano perché si è arrivati a Porto Torres o fai Civitavecchia, è una sfacchinata, capito? Quindi si potrebbe anche proporre se si vuole fare la fiera del Matteo Sassari, sarebbe anche una bella cosa, no? E c'è bisogno che ci siano grandi, partono anche 20, 30, 40 stand, una cosa giusta per far vedere, far conoscere alla gente quali sono veramente le attività materiali, perché no? E anche comprare radio, c'è molta gente che porta attrezzature, capito? Roba di un po' di tutto, anche computer, tutto quello che è digitale non, che si potrebbe organizzare, invece mi pare che Sassari è un morto. Ok, grazie, devo interrompere, mi hanno chiamato, dai, se ci sei ci sentiamo dopo, se no buon tutto, dai, fatti sentire, già lo sai dove sono. Ok, ciao. Ciao, no, no, già ci passo che così ci facciamo del chiacchiere, mi serve anche una mano a montare quella per antenna. Ciao, buona cena, un abbraccio, Roberto.